apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi parliamo di singolarità che si nascondono dietro apparenti normalità. Prendo lo spunto da un episodio di cronaca tristissimo, ne parlano tutti i giornali oggi, ma ne avrete avuto già notizia dai telegiornali: il quindicenne di Stoccarda che uccide 15 ex compagni di scuola in un ginnasio appunto di Stoccarda, poi si suicida. Figlio di un appassionato di armi, subito si fanno le associazioni, vietiamo le armi, attenzione, ci girano troppe armi. Ma la cosa interessante è quello che fa su Repubblica, che intervistano uno scrittore tedesco, Peter Schneider, che alla domanda del giornalista le trova che ci siano troppe armi in giro, che sia colpa della violenza, dei videogiochi. Dice, fa un discorso molto semplice che potremmo associare alle nostre esperienze di padri, di ragazzi adolescenti, a quello che noi ci vediamo incontro ogni giorno. Dice, il vero problema secondo me è che gli insegnanti non hanno più tempo per affrontare i problemi psicologici di ogni studente. Provi a chiedere un colloquio con un insegnante sui problemi di suo figlio, dovrà aspettare settimane, e questa è una realtà che tutti quelli che hanno un figlio adolescente lo sanno. Si chiede appuntamento a un professore per parlare del figlio, se ha un appuntamento dopo 15 giorni, se va bene, se hanno 5 minuti di tempo. E ci si trova davanti a una persona che sembra che in maniera totalmente standard, come se fosse un risuolatore di scarpe, ci dice freddamente, crudamente, quelli che sono i risultati scolastici del nostro figlio. Non si riesce ad avere un'informazione in più, si sa quanto a quell'età i ragazzi siano piuttosto restii di raccontare la loro vita, la loro interiorità, i loro cambiamenti. Chiede questo scrittore tedesco Schneider più psicologi a scuola, un maggior controllo, una maggiore attenzione. Questo ragazzo che ha compiuto questa strage era un ragazzo che non si faceva notare, era un ragazzo appartato, taciturno, isolato, che probabilmente soffriva di fallimenti sia scolastici che familiari, però nessuno lo sapeva. Se ne sono accorti quando ha preso una pistola in mano e ha fatto una strage di suoi compagni. Ora non voglio qui porre allarmismi negli nostri ascoltatori, ma voglio parlarvi di un fenomeno. Avevo già intenzione di parlarne da ieri, poi questa notizia di cronaca ha rafforzato la mia intenzione di parlare di fenomeni emergenti, latenti, che ancora non appaiono così evidenti nella nostra società, ma sono molto forti in società dalle quali noi prendiamo grande ispirazione. Il fenomeno di cui parlo questa mattina viene dal Giappone. Voi direte, il Giappone cosa c'entra con noi? Il Giappone c'entra tantissimo. La parte precipua dell'immaginario dei nostri ragazzi, e anche il nostro, è influenzato comunque da una rilettura giapponese, di anche realtà a noi familiari. Quanto della nostra letteratura per l'infanzia e per l'adolescenza, quanto della nostra epica, del nostro immaginario è stato filtrato attraverso la riscrittura, la rilettura che ne hanno fatto i giapponesi, quindi è diventato un prodotto di consumo. Dai cartoni animati vilipesi della nostra età, degli anni 70 e 80, che erano riletture epiche di storie che appartenevano anche al nostro tempo, ma che loro vedevano in maniera diversa, loro contaminavano con il loro singolarissimo immaginario di un popolo vissuto in maniera feudale fino all'orlo di una guerra da cui è uscito distrutto con la grande angoscia di essere state le prime vittime di un'arma potente inimmaginabile, e ancora si portano dietro un immaginario colpito e corrotto da questa sorta di distruzione atomica. Poi i giapponesi hanno avuto una rapidissima evoluzione anche economica, hanno invaso il mercato con la tecnologia, noi ogni giorno giochiamo con delle piccole console che sono comunque di matrice di azione giapponese, il sistema di musica portatile, sistema di portarsi dietro la propria colonna sinfonica nasce comunque da un'idea giapponese, ma poi gran parte dell'immaginario, della moda, del costume, anche dell'intrattenimento è giapponese. Oggi fa figo, andiamo dal giapponese a mangiare in un ristorante giapponese, anche poi sono cinesi che si sono riciclati, perlomeno in Italia hanno trasformato il cinese in giapponese. Quindi se vi parlo di un fenomeno adolescenziale, ma non soltanto adolescenziale, che nasce dal Giappone, state ben sicuri che prima o poi arriverà anche alle nostre latitudini. Hikikomori in Giappone è una parola che spaventa e che vuole essere tenuta lontana, come una malattia incurabile che colpisce senza motivo e quando arriva contagia lentamente tutta la famiglia, rovinandone l'esistenza. Il termine fu coniato negli anni Ottanta in riferimento a un numero sempre crescente di giovani, i quali, per motivi spesso legati ad una forma di apatia scolastica, interrompevano le comunicazioni con il mondo sociale e si ritiravano nella propria stanza, rimanendovi ininterrottamente per lunghi periodi. Per codificare parametri nella definizione dello stato di hikikomori fu indicato un periodo di ritiro minimo di 6 mesi, ma fu sempre più evidente che questo lasso di tempo si protraeva spesso anche per molti anni. I dati ufficiali riportano che gli adolescenti che in Giappone praticano hikikomori sono attualmente più di 1 milione, vale a dire il 2% dei giovani e l'1% dell'intera popolazione, di cui oltre il 90% di sesso maschile, di estrazione sociale solitamente medio-alta, vale a dire il padre laureato con posizione dirigenziale e la madre anch'essa laureata, quasi sempre casalinga. Avete cominciato a individuare il problema? Vivere isolati, trasformando la propria camera da letto nel proprio universo, elemento comune a molte forme di depressione, il bipolarismo che colpiscono sia adolescenti sia persone adulte. Ma qui c'è un'accezione ancora più spiccata. La camera da letto diventa il luogo di reclusione volontaria. L'hikikomori in camera da letto accumula montagne di immondizia. Vive soltanto dentro camera da letto, comunica con i genitori attraverso bigliettini, molte volte non comunica nemmeno, è collegato comunque con il mondo, ha una sua forma di espansione attraverso la rete, è un grande conoscitore della rete, è un grande conoscitore di tutta la letteratura legata appunto al manga, alle anime, ai fumetti, ai cartoni animati, a questo tipo di particolarissima letteratura che molte volte ha dei cultori quasi maniacali. Si approvvigiona di tutto ciò che è necessario sempre attraverso la rete, molte volte si fa mandare a casa il cibo che consuma in camera da letto, tenendo poi stratificati i rifiuti. Insomma, una specie di clochard, una specie di barbone che invece che la panchina della stazione o il giardinetto della grande città usa la propria camera da letto come luogo di reclusione volontaria dagli usi e dai costumi convenzionali. È singolare che hikikomori non si verifichi in famiglie divorziate o separate e neppure in casi in cui il padre è Tanshin Funin, ma in normali, regolari contesti familiari. Chi pratica hikikomori è figlio unico, oppure è il figlio maschio maggiore, il quale, tradizionalmente, è investito di maggiori responsabilità. Primo caso, giovane, 24 anni. Già dall'adolescenza aveva dimostrato di essere timido, problematico e nervoso. Alle scuole superiori una compagna di classe si lamentò del suo cattivo odore. Come risultato, diventò paranoico rispetto all'odore del suo corpo e cominciò ad avere difficoltà con la scuola, che dopo un anno abbandonò. Dopodiché, seppur con molte difficoltà interpersonali, si cimentò in molti lavori che regolarmente lasciava dopo un mese. Cominciò così gradualmente a ritirarsi dalle attività sociali. Trascorreva tutto il tempo nella sua stanza. Smise di aver paura del suo odore, ma si sviluppò in lui la patologia di misofobia e divenne evidente la sua compulsione a lavarsi. Questo stato di ritiro sociale durò per oltre 4 anni. Non è un ragazzo, non è un uomo che si chiude una settimana, 3 giorni in camera da letto, ma qualcuno ci sta anni. Per anni non mette il naso fuori dalla camera da letto. E se digitate in un motore di ricerca la parola hikikomori e cercate per immagini la vostra ricerca, vedrete le camere degli hikikomori. Sono dei grandi immondezzai, sono simili a quei luoghi che molte volte si vedono nelle città, nei sotterranei, nei sottopassaggi delle strade, dentro gli androni di certi portoni abbandonati, sotto i viadotti, dove vivono in alcuni immondezzai animati da esseri umani, delle colonie di persone che ormai vivono ai margini della società, ma tollerati, vivono in una famiglia che ha una vita normale, in cui il padre esce la mattina e torna la sera, lavora tutto il giorno, in cui la madre magari manifesta continuamente la sua ansia per questo figlio isolato, ma ciò peggiora la situazione. Io, come sempre faccio, già posi ieri la domanda sulla realtà hikikomori, quanto è sentita alle nostre latitudini, e devo dire che ci sono state decine e decine e decine di persone che hanno citato episodi che si associano in qualche maniera a questo atteggiamento. In questo momento mi scrive Daniela, dice l'hikikomori è una sorta di personaggio fa moderna forma di harakiri, cioè di suicidio. Sono quelli che non hanno dimestichezza col marketing, quelli che non vincono, quelli schiacciati dalla competizione, non si tagliano la pancia ma tagliano fuori dal loro mondo ogni possibile forma di riscatto sociale. Le vittime di hikikomori sono precari, laureati con tanto di master, figli incompresi, donne sottomesse, stranieri per bene, gli uomini che piangono, uno su mille ce la fa. I bambini rubati, amori finiti, libri che non entrano in testa, bocciature, fardelli pesanti. Ciao, sto su hikikomori, sto bene, non mi cercate, mi farò vivo io. Secondo esempio, un trentenne. Nessun problema, né alla scuola elementare né alle medie. Alle superiori però ha cominciato a fare assenze, non gli piaceva più andare a scuola ed ogni tanto ha avuto episodi di violenza in famiglia, in modo particolare nei confronti della madre. Nelle scuole superiori ha abbandonato definitivamente gli studi, anche se successivamente è riuscito a prendere il diploma per corrispondenza. Il suo atteggiamento nei confronti dello sporco in casa è diventato sempre più maniacale. Si arrabbiava per ogni piccola sporcizia e a volte picchiava la madre. I genitori hanno deciso di trasferirsi in un'altra casa. La situazione si protrae ormai da 6 anni. Comunica solo con bigliettini. Ogni tanto manda lettere ai genitori su cui scrive «Vi ucciderò sicuramente». 800 24 0024, questo tipo di suggestione, questo tipo di notizia, questa informazione vi accende qualche lampadina, vi illumina su qualcosa che accade nella vostra sfera familiare, che accade a voi, che accade a persone che conoscete. Il fenomeno hikikomori è anche presente in Italia, anche se in piccola percentuale. Di questo oggi parleremo con persone che ne hanno cognizione di causa. Ricordo che il primo a comunicare all'Occidente l'esistenza di questo fenomeno è Michael Zillinzinger, che è un ricercatore dell'Università di Berkeley in California, che si è occupato per tanto tempo di rapporti socio-economici tra Oriente e Occidente, che ha osservato come corrispondente da Tokyo per una agenzia di stampa americana questo tipo di realtà, e ne ha fatto un libro corposo, Non voglio più vivere alla luce del sole, l'edizione italiana, Il disgusto per il mondo esterno di una generazione perduta. Lui associa, devo dire, in maniera molto tenace la realtà giapponese, una realtà fortemente competitiva in cui le persone sono molto collegate tra loro, e questo fenomeno che non è altro che uno dei tanti sintomi che vengono fuori da quel tipo di società. Addirittura cita uno studio antropologico per cui i giapponesi sarebbero così tenacemente, fortemente legati quasi a un vincolo sacrale con il proprio lavoro, con la società che li giudica, da antichissimi retaggi dovuti addirittura alla cultura del riso, all'alimentazione del riso. Coltivare il riso non era una cosa banale. Il riso presupponeva che tutta una serie di contadini che avevano degli appezzamenti di terreni contigui osservassero delle regole, un piano di coltivazione comune per tutti, perché ognuno aveva le sue chiuse, apriva il suo rigagnolo d'acqua. Se un contadino si ribellava, non voleva stare alle regole, metteva in precaria stabilità l'esistenza e la vita anche degli altri. Quindi necessariamente la cultura del riso, secondo alcuni antropologi, ha determinato questa sorta di ossessione di società giapponese malata di culto per il lavoro. E le radici psicologiche dell'hikikomori sono molte volte un padre assente, un padre assorbito completamente da questa missione sacrale del lavoro, e una madre in realtà molto disponibile, molto apprensiva nei confronti dei figli. Ma molte volte queste letture sono superficiali. Anche per l'autismo per tanti anni si è parlato di madri frigorifero, poi si è capito che hanno tutt'altre cause. Anche in Italia c'è stata un'interessante pubblicistica sul fenomeno hikikomori. Cito per Franco Angeli, hikikomori adolescenti in volontaria reclusione, curato da Carla Ricci, di cui c'è uno dei tanti, delle tante persone che se ne sono occupate, è il dottor Antonio Piotti, psicoterapeuta, che ha curato appunto la prefazione di questo libro. Dottor Piotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, innanzitutto, buongiorno, se ho detto qualche inesattezza nella mia introduzione rispetto alla realtà italiana di questo fenomeno, lei ha qualche cifra, qualche dato, qualche osservazione su quanto un fenomeno molto legato alla fattispecie giapponese possa trapelare anche la nostra società, che in parte è influenzata anche da quella cultura? Ma dati, nel senso, dati statistici oggettivi su questo fenomeno non ce ne sono. Noi abbiamo cominciato a studiarlo da pochi anni e in effetti è stato anche il termine Hikikomori, anche un'etichetta che adesso diamo anche noi ai ragazzi che si recludono. Io ricordo di aver conosciuto ragazzi che si recludevano ancora prima di sapere che cosa fossero gli Hikikomori. E quindi, insomma, in qualche modo diciamo che sono anche etichette che si applicano a situazioni. Per quanto riguarda il rapporto tra società giapponese e società italiana, ci sarebbe tanto da dire. Naturalmente ci sono enormi differenze. Forse però il fatto del rapporto del figlio maschio con la madre potrebbe essere piuttosto interessante, perché qui da noi, come in Giappone, c'è l'idea di figli maschi che restano in casa piuttosto a lungo. Assolutamente normale la società giapponese, un quarantenne ancora mantenuto dalla famiglia. Sì, è normale nel senso che nella logica culturale giapponese il figlio maschio deve stare a casa ad aiutare la mamma e anche a mantenere lei quando comincia ad avere lavoro. Quindi c'è un'idea del rapporto del figlio maschio con la madre che non è tale per cui questo deve separarsene, se non a una certa età, anzi viene favorita una certa fusione. E questa può essere una delle cause per cui in Giappone la cosa poi sta diventando così epidemica. In Giappone si tratta di una, ormai di una problematica sociale molto grave, si parla di 1 milione di persone, 1 milione di giovani che si sono reclusi. Quando intendo reclusi lo intendo non in senso allegorico, metaforico, ma realmente. Io ho visto le foto di una clausura, proprio nel senso tecnico del termine. E vivono in condizioni subumane, nel senso vivono in un immondezzaio realmente, perché alla fine non uscendo più dalla stanza, quella stanza avviene tutto. Ecco, questo forse può essere anche... Io ho parlato con Carla Ricci, l'autrice del libro che lei ha citato, per il quale ho scritto l'introduzione. Lei un po' mi ha contestato questo dato, mi ha detto che effettivamente gli hikikomori non sempre sono così disordinati e così, diciamo, sporchi, ecco. Io ho sentito a volte, per quanto riguarda casi miei, casi che ho incontrato, madri lamentarsi di questo disordine, di queste stanze. Che è una cosa di cui le madri si lamentano dall'origine dell'umanità, penso. Dall'origine dell'umanità, però qui in maniera specifica, nel senso cibo lasciato nei cassetti a imputridire, insomma proprio l'idea di un degrado. Ecco, vorrei sentire un attimo... La Ricci mi diceva che questo degrado in Giappone non c'è, la mamma porta il vassoio col cibo, il ragazzo mangia, il vassoio viene portato via. Certo, lo stare chiuso in una stanza per anni comporta un degrado psichico dopo. Anche fisico, direi. E alla fine anche fisico, perché se non hai la luce del sole c'è anche qualche cosa di proprio di fisiologico che comincia a deteriorare. Diventi quasi un vampiro. Sentiamo velocemente intanto un ascoltatore, poi passiamo la linea all'informazione per la borsa e entriamo nel vivo. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Per fortuna la situazione di cui voglio parlare io non è così grave, assolutamente lontano mille miglia dei discorsi di chiusura totale, però sono madre di un 19enne oltre che di un 32enne e mi rendo conto che il 19enne, pur iscritto a un'università, pur avendo la possibilità economica di frequentare anche le strutture per esempio parallele a quelle di studio, preferisce rimanere a casa una volta svolti i suoi compiti, diciamo, di studente, ma proprio in minimi termini, nella collettività, torna a casa, lui ha il suo bello studio, il suo computer, il suo telefono e per fortuna va anche in palestra in un gruppo organizzato 2 volte a settimana, ma per il resto questo fatto di stare da solo al computer senza comunicare con noi se non a pranzo e cena o vedersi un film con noi dopo cena c'è. Forse non avete gli stessi gusti in campo no, di no, film. No, perché no, si fanno tantissime cose insieme, però abbiamo fatto viaggi, che è una cosa che piace a tutti. Suo figlio può anche ricevere nella sua stanza, signora, in famiglia? Se volesse sì, però a parte che abitiamo in una regione, nel Friuli, dove è difficilissimo, diciamo, proprio anche questa interazione, no, fra gente, e ce ne siamo resi conto moltissimo da quando siamo venuti qua, pur avendo tanti amici, ma per i giovani in particolare ancora più difficile, lui può ricevere chi vuole, se vuole, capisce? Diciamo che mi sembra di capire, ci sentiamo immediatamente dopo l'interruzione con il dottor Piotti, che non siamo a livello del fenomeno di cui stiamo parlando, è un ragazzo che, posso anche capirlo, sta molto bene in camera sua, sta molto bene a casa sua, ha tutti i comfort, e in fondo le dico francamente, è la vita che poi facciamo tutti noi che lavoriamo, quando andiamo a casa, alla fine ci chiudiamo in un posto davanti a un computer e abbiamo la gioia, la felicità, il sollievo di poter stare tranquilli a fare quello che facevamo anche nel luogo di lavoro, perché molte volte queste macchine ci accompagnano sia nella fatica e sia nell'evasione. Melog 2.0. Stiamo parlando del fenomeno hikikomori, che sono adolescenti, ma non soltanto adolescenti, che volontariamente si rinchiudono, si segregano dal mondo e rimangono nella loro stanza chiusi anche per anni, facendo tutta la loro vita vegetativa e relazionale dentro con le quattro mura, collegati con il resto del mondo tramite la rete, giocano multiplayer, quindi hanno una loro forma di relazione ormai diretta, rifiuta completamente il contatto umano, e i genitori hanno una sorta di eremita dentro casa propria. Devo dire che questo ha suscitato molto allarme nei nostri ascoltatori, soprattutto quelli più informatizzati, quelli che seguono la trasmissione attraverso il computer mentre stanno lavorando. Ho decine di persone che mi stanno scrivendo, allora anche io sono hikikomori, sto molto tempo davanti al computer, mi piace stare chiuso in camera mia, ma devo dire che la situazione, per sfociare in questo quadro che è sicuramente patologico, determinato da una società come quella giapponese con delle particolarità molto spiccate rispetto alla nostra, ma non è detto che la nostra società non viva di riflesso, non segua sulla scia lunga alcune linee di tendenza che vengono dal Giappone, come tante altre, come quella per i manga, per un certo particolare tipo di animazione, per un certo particolare tipo di console di gioco, per alcuni immaginari che contaminano comunque anche il nostro senso estetico. Quindi forse è bene che dia una scheda precisa quali siano i sintomi del fenomeno hikikomori. Esistono segnali evidenti della sua presenza latente. I più vistosi sono alcune espressioni ricorrenti esternate spesso dai ragazzi, come ad esempio: se vedo persone in divisa, avverto una grande ansia. Mi dà fastidio lo sguardo delle persone, perciò non voglio prendere né treni né autobus. Mi fanno paura i gruppi di studenti in divisa. Se mi mischio ad altre persone, finisco per rovinare l'atmosfera. Non ho mai niente di interessante da dire, perciò se mi trovo con altri, l'atmosfera si raffredda per causa mia. Dato che il mio corpo puzza, do sicuramente fastidio agli altri. Anche se mi preoccupo di non avere uno sguardo troppo insistente, alla fine finisco sempre per urtare le persone. Devo dire che rispetto a questo atteggiamento, a queste confessioni, molte di queste espressioni sono legate alla società giapponese. Da noi è difficile che i ragazzi adolescenti vadano a scuola in divisa, a meno che non appartengano a alcuni licei molto esclusivi e molto elitari, come io vedo alle par quando esco da questo luogo di lavoro, venire da Piazza di Spagna, dei giovani fighetti tutti in divisa, perché è un liceo particolare, una scuola particolare, ma in Giappone la classe studentesca è definita da persone in divisa, quindi vedere persone in divisa significa ricordarsi della scuola e quell'ambiente a cui sono fuggiti, perché l'ambiente in cui per la prima volta il forte senso competitivo ha fatto sentire gli hikikomori non all'altezza di quella competizione, disinteressato comunque ad entrare in quel gioco. Gabriella, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma spento la pronto? Sì, ecco, la sto ascoltando. Ah sì, pronto. Sì, niente, noi siamo genitori, ragazzo di 7 anni e mezzo. Sì, non digiti mentre parla, sennò è un casino. Sì, è un che risponde perfettamente alla descrizione che avete fatto. Lui sono 2 anni che non esce di Quanti casa. Quanti anni sono che non esce di casa? 2 anni. Cioè 2 anni è chiuso dentro casa? dalla sua stanza. Cioè non esce mai dalla sua stanza? No, non esce mai dalla sua stanza, vive come un clochard, non si lava, dorme praticamente. E quanti anni ha suo figlio, signora? 17 anni e mezzo. Ma lei ha mai pensato di proporre il problema a un medico, a uno specialista? Noi ci siamo rivolti a... parecchi specialisti, però non fanno visite domiciliari. Il nostro medico di base non si rifiuta di venire a vedere il ragazzo. Perché si rifiuta? Come si rifiuta il medico? Si rifiuta perché dice che è un problema, che il problema va rimandato agli assistenti sociali. Ci siamo rivolti agli assistenti sociali, ci hanno risposto che il problema va rimandato al giudice dei minori, quindi adesso stiamo aspettando l'intervento del Tribunale dei Minori di Brescia. Ma cosa dovrebbe dire il giudice? Il giudice dovrebbe ratificare, adesso non so il termine tecnico, comunque dovrebbe prendere nostro figlio e inserirlo in una comunità o in un'altra famiglia oppure in una comunità. Perché il figlio è già maggiorenne, per questo ha 19 anni, se non ho capito. No, il figlio ha 17 anni 17 e mezzo. Anni e mezzo, quindi ancora non maggiorenne. Non è maggiorenne, ma questa situazione dura da 2 anni, quindi lui ha cominciato a rinchiudersi gradualmente, non è stata una cosa da un giorno all'altro, è stata una cosa graduale, durata dei mesi. Ecco, voi come comunicate con lui, signora? Dunque io busso alla porta, lui apre lo spiraglio, gli do il piatto, poi i piatti si accumulano, i piatti sporchi, aspetto che si addormenti, lui preferibilmente sta alzato di notte e dorme di giorno, raccolgo la poca immondizia che riesco a raccogliere perché se si sveglia ha delle reazioni violente e mi praticamente... Diciamo i suoi bisogni li fa tutti nella stanza, suo figlio? Sì, non esce mai, per lui ha una stanza con un bagno privato. Diciamo. Ah, ecco, un bagno, beh, diciamo un piccolo appartamento. È un piccolo appartamento e sta al computer, sì. E cosa fa il computer? Lei ha provato mai a contattarlo, via computer? Ma ogni tanto lui esce, parliamo... No, visto che lui sta legato al computer, lei non potrebbe con un altro computer entrare in contatto con lui? Lui sarà continuamente in chat o collegato a dei sistemi di comunicazione, in un social network? No, preferibilmente lui gioca sempre questi... l'altro gioco, quello Warcraft. Ecco. Quindi, beh, è un multiplayer, quindi comunica con altre persone attraverso il gioco? Esatto, sì. Ma lei non ha mai pensato di entrare anche lei nel gioco per avere comunque un modo di contattarlo, di avere un contatto con lui? Sì, le dico quello che farei io adesso, poi sentiamo gli specialisti. Trovare comunque una forma di visto che lui si muove in quella realtà parallela, entrare anche noi nella realtà parallela e vedere come si raffigura perlomeno in quel mondo. Io avrei questa curiosità. Sì, potrebbe essere... Sento allora, resti in linea signora, sento il nostro ospite Antonio Piotti che è psicoterapeuta, che è una delle persone che mi sto rendendo conto quanto poco se ne sappia ancora in Italia, comunque ha degli elementi per analizzare questo fenomeno. Dottor Piotti, ecco, è un caso di hikikomori, se vogliamo usare questa definizione? Senz'altro, questo sì, questo è un hikikomori proprio secondo tutti i crismi, no? C'è stata fobia scolare, c'è stata inversione del ritmo circadiano e c'è questo fenomeno proprio di fobia sociale. È interessante questo aspetto, no? Perché è proprio quello che da quella scheda che avete dato, che mi sembra fatta piuttosto bene. Non si tratta, è presa dal suo libro, è fatta bene, sì. Non si tratta tanto delle divise, è presa dal libro della Ricci. Sì, da Ricci. Non si tratta tanto delle divise. Il problema è proprio il rapporto con gli altri. Anche i nostri studenti hanno delle divise, cioè hanno per esempio dei modi di vestire, delle mode, degli stili giovanili. Il problema è non sentirsi adatti a questa roba qua e sentirsi fuori da questo gioco qua e sentirsi provare un profondo senso di vergogna sociale. Questo è quello che avviene a questi ragazzi. Diciamo, il primo impatto con una società dentro la quale dobbiamo necessariamente adeguarci per sopravvivere è la scuola. È il mondo della alcuni scuola. Fenomeni, lo dico la per esperienza. Dice come fobia scolare. Lo dico per esperienza personale, anche io ho figli adolescenti, quindi so esattamente cosa significa gestire l'adolescenza di un ragazzo assediato da alcuni rituali tribali dei suoi amici, dei quali non si sente molte volte dover condividere, e quindi questo crea isolamento, quindi si sente disadattato, diverso quanto magari una persona normalissima. È come un contrasto tra un sé grandioso, che è quello che riesce ad adattarsi e fare bene tutte quelle cose, sì, e un sé invece meschino, fallimentare. Vuole dire qualcosa, Gabriella? Esattamente, mio figlio frequentava una scuola privata esclusiva e si è manifestato, ha cominciato a manifestare un rifiuto per questa scuola, e veniva, mi diceva, preso in giro perché non rispondeva, diciamo, ai canoni. E cambiare le scuola non ha mai pensato? Appena abbiamo provato a cambiare scuola, ma anche lì non senza risultato. Lui ha frequentato per 2 o 3 mesi le superiori, poi a 15 anni e mezzo gradualmente ha cominciato a è iniziato questo ritiro. Che poi è diventato un ritiro completo dalla società, dal mondo. Senta, verso i 16 anni. Signora, vorrei che il dottor Piotti però dicesse una parola nel minuto che ci rimane prima delle informazioni per il traffico riguardo al suo problema, perché la signora ha espresso un problema pratico, concreto. Possibile che un medico dica non è roba mia e l'assistente sociale dica andate dal giudice? Volevo proprio dire questo: i problemi in Italia è poco affrontato. Nel Minotauro, che è l'associazione dove io lavoro, stiamo mettendo a punto un'unità di ricerca sugli hikikomori con psicologi e con l'idea di cominciare a fare visite domiciliari, perché è chiaro che non possiamo, come dire, stare nello studio ad aspettare che questi ragazzi arrivino. No? Allora guardi, dottor Piotti, visto che adesso lascio la linea velocemente alle informazioni col traffico, nella parte finale di questa trasmissione daremo anche delle piccole istruzioni pratiche, concrete, assieme a qualche suo collega, cosa fare se mai ci si trovasse in situazioni del genere. Io intuisco, ma la mia è soltanto un'intuizione, potrei sbagliarmi, che il problema esiste, è già fortemente, perlomeno nella sua fase embrionale, iniziale, presente in molte famiglie italiane. Solo che ancora nessuno sa che potrebbe sfociare in un fenomeno hikikomori. Perché? Perché è una parola poco usata, non conosciuta, di cui penso che da qui a qualche anno si parlerà molto. Melog 2.0. Vedete che alla fine abbiamo iniziato parlando di qualcosa che sembrava che non appartenesse alla nostra realtà, poi invece vedo fortemente legato comunque a una realtà che noi conosciamo. Dico questo perché conosco bene i problemi dell'adolescenza, conosco bene i problemi dell'impatto che hanno queste difficoltà a inserirsi in logiche di gruppo, in logiche di omologazione, e vedo la poca attenzione che ha la scuola rispetto a questi problemi, molte volte impietriti nell'osservazione delle regole scolastiche o nella contestazione, visto che la moda di questo ultimo anno dell'apparato di gestione della scuola, ci si dimentica dei problemi dei ragazzi. Poi parliamo di bullismo, parliamo di isolamento, parliamo di ragazzi che si abbandonano alla dimensione parallela e virtuale, incorporea, rispetto alla vita di tutti i giorni, ma dimentichiamo che i ragazzi molte volte sono l'esito delle famiglie, e se esiste un forte senso di competizione, esistono delle regole, delle parole di passo a cui è impossibile non adeguarsi, questo non è altro che l'anticipazione, che è lo specchio di quello che poi accadrà nella realtà. Abbiamo al telefono, parlavamo con il dottor Piotti riguardo al problema di una nostra ascoltatrice che ha detto che un suo figlio ha tutti gli effetti, ha le caratteristiche degli hikikomori, vive da 2 anni chiuso nella propria camera da letto dove svolge ogni funzione privata, personale, nutrizionale, corporea e via dicendo. La madre si è rivolta a un medico, si è rivolta a assistenti sociali, alla fine la cosa è finita in mano a un magistrato, a un giudice. Non sa perché un giudice debba essere la persona che poi alla fine decide sul destino di un ragazzo, perché non ci sono strumenti, dottor Piotti. Intanto è difficile, anche noi rispetto a questa questione delle visite domiciliari stiamo molto riflettendo. È chiaro che si tratta di un'intrusione e quindi in qualche modo non può essere così facilmente spiegata. Questo sì, ma nei confronti di un ragazzo minorenne, quando la famiglia è d'accordo a fare qualcosa per il bene di suo figlio, il non problema, è più un'intrusione. Il problema è che comunque bisogna vedere anche se questa cosa della visita domiciliare è risolutiva, se il ragazzo l'accetta, se la rifiuta, se addirittura non peggiora la situazione. La visita domiciliare va fatta quando il clima è preparato. Sì, ma dopo due anni una persona vive in isolamento come un animale dentro la stalla, con la famiglia che gli passa dalla fessura della porta il cibo e la nottetempo va a pulire quello che può nella stanza, sennò lui si rivolta come una belva. Mi sembra sia un problema senza uscita. Quel ragazzo è perduto se qualcuno non se ne occupa. Certo, sicuramente, questa è proprio l'ansia che viene rispetto a queste cose, è l'ansia che hanno anche i nostri colleghi giapponesi che devono agire con molta lentezza. Sì, però riporto, il problema è un problema di attenzione scolastica, visto che l'argomento è interessante, non è detto che domani lo continui in questa linea. Possibile che il corpo insegnanti non si accorga del nascere di un disagio così forte? Non si accorga che nel gruppo c'è un ragazzo che magari ha una sensibilità diversa dagli altri? Un ragazzo comincia a soffrire? Perché l'abbandono scolastico è il primo sintomo, mi sembra di aver capito. Sì, effettivamente questa volta farei fatica io a parlare di una colpa degli insegnanti. Non dico colpa, però un'attenzione maggiore. Di una disattenzione degli insegnanti. Beh, si tratta di una situazione veramente strana e veramente diversa dal solito. Questi ragazzi di solito non hanno uno scarso rendimento scolastico e quando cominciano a ritirarsi, gli insegnanti, nella mia esperienza, gli insegnanti sono molto disponibili a riaverli a scuola. Ho conosciuto insegnanti che hanno telefonato, sono andato a casa, hanno cercato di creare a scuola condizioni di clima di accettazione impensabili per questi ragazzi, cercando di convincerli a ritornare. Il problema è che ciò che blocca in questo tipo di fobia scolare non è il risultato scolastico e forse neanche il rapporto con gli insegnanti, è il rapporto sociale con l'altro, no? Qualcosa di molto più sottile e quindi anche di molto più difficile da comprendere e da risolvere. Mi sembra che sia un problema degno di anche maggior approfondimento. Intanto saluto e ringrazio il dottor Piotti e passo a Marilena. Marilena, buongiorno. Ah, buongiorno Gianluca, meno male. Ascolti Gianluca, io mi riallaccio adesso anche al dottor Piotti, io sono un counselor, non sono molto esperta della società giapponese, ma sto seguendo quella italiana e quella europea, tanto che secondo me il discorso, intanto, gli insegnanti non hanno gli strumenti per affrontare il disagio dei Mi sembra ragazzi. Capito, non li hanno i medici e non li hanno gli assistenti sociali. Mi sembra che gli insegnanti che faticosamente cercano di adeguarsi a una società che va molto veloce rispetto ai loro sistemi di aggiornamento professionale, e molte volte la scuola è a un passo piuttosto sghembo rispetto all'evolversi della società. Certo. Infatti il discorso, mi riallaccio anche a una frase del suo direttore quando ha detto che nessuno dei due schieramenti investiva sulla società. Io credo che abbiamo proprio bisogno di una virata a 360 gradi e il progetto che ho presentato è di inserire il counseling nelle scuole con dove ci sono delle ore di ascolto e dove vanno trattati i temi proprio dell'adolescenza. Ecco, mi spieghi esattamente, anche spieghi a chi sta ascoltando di cosa si tratta. Diciamo che i gruppi di autoascolto, perché questo? Perché lo psicologo ha fatto già qualcosa nella scuola, solo che il ragazzo che vive il disagio difficilmente andrà dallo psicologo. Nei gruppi di ascolto il disagio emerge, di conseguenza c'è la possibilità di lavorarci sopra. Quindi mi sembra uno strumento in più che perlomeno si sta proponendo. Uno strumento grosso, Gianluca. Io ho presentato anche al suo direttore, ho mandato questa idea mia di progetto. I suoi rapporti con il mio direttore mi fa piacere, ma... Purtroppo l'ho mandato a tutti i vari ministri perché sono convinta che bisogna, da tutto quello che sento, bisogna risanare questa società nostra. Va bene, ci fermiamo qua perché... Ho in mente, mentre sto parlando con lei, di continuare domani questa trasmissione legandola più ai problemi della scuola. Però vorrei sentire un attimo Marco Lombardozzi, medico e psicoterapeuta. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi. Molto velocemente, ma dico, riprendendo in mano il tema domani, non è detto che poi lo dilatiamo anche ulteriormente. Lei, nella sua esperienza professionale, ha avuto altri casi in osservazione come quello della signora che ci ha telefonato? Sì, diciamo che io come psicoterapeuta a parte mi sono documentato molto sul fenomeno di Hikikomori, poi ho avuto dei casi qui a Roma dove io esercito che potremmo includere all'interno del fenomeno di Hikikomori, sì, posso dire di sì. Diciamo, la sua esperienza, se noi osserviamo una fase di progressione di questa patologia. Esiste un punto di partenza abbastanza diffuso come esperienza comune, non nelle sue punte più estreme della segregazione, ma perlomeno di un disagio, di un rifiuto dell'ambiente scolastico nella nostra società? Sì, guardi, c'è un comune denominatore in questi ragazzi, anche in quelli giapponesi e in quelli italiani, che adesso sono ancora pochi ovviamente, però il denominatore comune è la rinuncia alle emozioni, perché questi ragazzi comunicano solo attraverso strumenti tipo SMS e chat, dove non vengono veicolati i contatti sensoriali, non c'è l'odore, non c'è il sapore, non c'è il contatto fisico. Che però è una modalità ormai di relazione comune anche a noi adulti. Io la maggior parte dei miei contatti di lavoro e anche personali li ho attraverso una protesi elettronica, perché è così. Perché... Sì. Però già anche il telefono, come noi stiamo parlando ora, è comunque un contatto, loro lo evitano. E poi in ogni caso abbiamo contatti con i nostri familiari, con i nostri amici, ci vediamo, abbiamo dei rapporti anche fisici. Ecco, quali sono le possibilità di intervento sui suoi pazienti, dottore? In una battuta. Guardi, l'unica possibilità che almeno per la mia esperienza si può trovare è l'alleanza terapeutica. Se si riesce a creare un'alleanza terapeutica di comunicazione con questi ragazzi anche attraverso la porta, perché inizialmente non accettano l'ingresso, ma magari attraverso la porta cominciare ad aprire un dialogo, all'inizio molto povero e poi piano piano si arricchisce, il discorso è fatto. Perché li portiamo piano piano fuori, li dobbiamo portare, così come li dobbiamo portare fuori dalla stanza in cui si chiudono, li dobbiamo portare fuori dal mondo non emozionale dentro il quale si rifugiano. In genere. Allora guardi, io sono in sigla, mi devo fermare, però non lo faccio mai, annuncio da oggi che l'argomento domani sarà il proseguo di questo nostro interrogativo, ma prima di arrivare a parlare con dei ragazzi attraverso lo spiraglio una porta vorrei capire nella scuola qual è il livello di attenzione, il livello di conoscenza di questo problema, quindi sposteremo e anticiperemo l'hikikomori ormai nella sua fase acuta quando è soltanto un ragazzo che a scuola si sente male, sente un disagio, cosa fa la scuola? Se ne accorge? A domani. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.